a ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Diceva Giovanni Falcone che se la mafia fosse inserita in un sistema fondamentalmente sano, per sradicarla basterebbe un'azione di polizia. Evidentemente è invece profondamente contagiato se lì, in un opaco sistema di poteri e interessi intrecciati, approdano anche le indagini sulle bombe che fecero saltare in aria i magistrati 20 anni fa. E a quella stagione torniamo anche in questa puntata di A Ciascuno il Suo, tra episodi inediti e inchieste tuttora aperte, e ci torniamo col magistrato che rappresenta a livello più alto l'antimafia in Italia e che ora, dalla sua scrivania alla super procura voluta proprio da Giovanni Falcone, formula un auspicio: liberi tutti, titolo dell'ultimo libro di Pietro Grasso, procuratore nazionale antimafia. Diciamo che il gioco mi portava da bambino a liberare tutti, però nella realtà è un po' più difficile. Quindi nella realtà bisogna che ognuno di noi cerchi di liberare tutti gli altri, e così con la solidarietà e con l'impegno si potrà cercare di essere più liberi da quella forma di oppressione che appunto è la mafia e tutto ciò che rappresenta. Questo auspicio cade, come dicevamo, in un momento particolare come il 20° anniversario dalle stragi. Quelle stragi del 92, l'attentatuni di Capaci, il tritolo di Via D'Amelio, hanno fatto tremare non solo la Sicilia ma l'Italia intera e hanno inciso profondamente nella vita di tutto il paese, ma ancor di più in quella di chi, come lei, ha partecipato direttamente al maxi processo istruito proprio dal giudice Falcone, e ora lei stessa siede al vertice di quella super procura che proprio Falcone volle, attirandosi anche addosso, dobbiamo anche ricordarlo, l'azio di molti colleghi. Su quella stessa auto, il 23 maggio, procuratore, lei racconta che doveva esserci anche lei. Sì, perché eravamo soli. Io ero stato chiamato da Falcone al Ministero della Giustizia proprio per collaborarlo in quella che è stata la creazione di una legislazione antimafia che ancora oggi ci è invidiata da tutto il mondo nella lotta alla criminalità organizzata. Bene, quel giorno, il 22 maggio, cioè il venerdì prima della strage, dovevamo partire nel pomeriggio. Lui mi chiamò che invece si doveva rinviare la partenza al giorno successivo perché sua moglie Francesca era stata convocata a una riunione della commissione per entrare in magistratura. E quindi mi diceva che l'indomani mattina sul tardi saremmo partiti. Io gli dissi: se riesco a trovare un posto in un aereo di linea, perché noi partiamo con un volo di sicurezza, dico, io partirò ugualmente stasera. E non c'erano posti, era un fine settimana e all'ultimo minuto probabilmente dovevo pensare che un parlamentare rinunciò a partire perché rimase libero l'ultimo posto riservato ai parlamentari. Ricordo ancora il posto, 1L, fila 1, lettera L. Imbarco alle 19:40. Beh, presi quel volo. Direttamente sarei stato l'indomani con loro nell'auto. Alle volte ci ho ripensato, dico, vivere il momento di dolore quando è arrivata la notizia è stato qualcosa che non si può descrivere, perché sentimenti di rabbia, di dolore, di vuoto, di angoscia che sono venuti poi. Mentre la televisione diceva che comunque ancora non era morto, io mi recai con la mia auto direttamente all'ospedale e mentre andavamo con le sirene spiegate verso l'ospedale io dicevo e pregavo: dai Giovanni, cerca di resistere, non ci puoi venire a mancare proprio tu che sei stato uno sempre ben saldo al timone della tua vita nonostante le avversità, sei fatto da scudo, da guida. Ebbene, purtroppo quando arrivai, dopo qualche minuto, arrivò la notizia che non c'era più niente da fare. E quindi non si possono dimenticare questi momenti e anche sicuramente, se si commemora insieme momento agli altri, per me sono sempre presenti i miei amici e colleghi. Certo, ed evidentemente il momento e quella stagione delle stragi rappresenta una parte centrale importantissima anche della sua attuale riflessione a 20 anni di distanza. E se quella volta fu, diciamo, il caso, il destino, la provvidenza, come vuol definirla, a volere che lei non fosse nell'auto con Falcone, i boss ci hanno riprovato pensato però ad ucciderla, come lei stesso racconta? Beh sì, diciamo che ci sono state altre coincidenze nella vita che hanno evitato appunto l'evento letale, come appunto descritto nel libro, allorché avevano pensato a un attentato per riattivare una trattativa che languiva nel 1900, alla fine del 92. In quel momento avevano pensato di mettere l'esplosivo dentro un tombino davanti casa dei miei suoceri a Monreale. Era già pronta l'autovettura da posteggiare sopra con il fondo tagliato proprio per lavorare fingendo una macchina posteggiata sul tombino, però si accorsero che il telecomando poteva essere influenzato dal sistema di allarme di una banca vicina e allora rinviarono il tutto e cercarono di trovare un telecomando che non consentisse interferenze, e questo telecomando però arrivò tardi, nel senso che fu arrestato Rina, poi furono arrestati gli attentatori e poi mia suocera morì e non andai più in quel posto. Lei ha appena pronunciato una delle parole chiavi di quella stagione che tuttora restano di attualità, ossia il discorso della trattativa. Ecco, cosa ha pensato leggendo e sapendo appunto di recente di quel pianto di Paolo Borsellino, che confidò pochi giorni prima anche di essere a sua volta ucciso nella strage di Via D'Amelio, di trovarsi in un covo di vipere? Diciamo che spesso sia Falcone che Borsellino nella vita dovettero affrontare delle avversità poste in essere non solo dalla mafia ma anche da coloro che stavano loro attorno, quindi diciamo è questo quello che dà valore anche al loro sacrificio di aver saputo resistere in questi momenti, e il suo pianto, il fatto di essere stato tradito, lui che era una persona assolutamente sincera, trasparente, il dolore di riscontrare un tradimento da parte di un amico certamente, però non siamo riusciti ancora a capire chi poteva essere questo amico e speriamo di scoprirlo, che le indagini possano scoprirlo. Un amico traditore, dietro forse la strage anche di Via D'Amelio, interessi convergenti pare forse anche nella strage di Capaci, sembrano diciamo tracciare alcune indagini ancora in corso. Lei parla chiaramente delle stragi nel suo libro e io questo non posso non chiederlo, procuratore, ma secondo lei, ecco, anche dietro la strage di Capaci un giorno diciamo si scopriranno dei segreti che faranno tremare le istituzioni? Io spero che sia fatta piena verità e piena luce su tutto ciò, anche perché lo dobbiamo alle vittime, ai parenti delle vittime, trovare tutti i responsabili, non solamente alcuni. Devo dire che è terribile, è lacerante intuire certe cose e non poterle dimostrare, perché non c'è dubbio che Falcone doveva essere inizialmente ucciso a Roma, per una strage di Roma, in maniera molto più semplice di come poi è stato organizzato il suo attentato. Poi è arrivato a un certo punto questo comando che operava a Roma e che non era riuscito ad attuare immediatamente questo risultato, fu richiamato per dire che avevano trovato qualcosa di meglio e pensarono di minare con 500 kg di tritolo un'autostrada, una cosa che diciamo non è solita nelle azioni della mafia, e quindi è qualcosa che si è aggiunta, qualcosa ci doveva fare il giro del mondo e impressionare il mondo, e questo certamente lascia intuire delle finalità che trascendono quelle di Cosa Nostra e che non hanno ancora una direzione precisa. La responsabilità penale è personale, quindi bisogna trovare elementi concreti nei confronti delle persone, non basta. Certo, appunto. Lei ci ha provato a far parlare ad esempio uno dei capi come Provenzano, come lei stesso racconta nel suo libro, ma la sua risposta, come lei dice, ha riportato poi ciascuno nei suoi ruoli. Sì, nel senso che io dovevo farmi il capo dell'antimafia e lui si faceva il capo della mafia, perché io avevo detto che potevamo insieme fare qualcosa per la Sicilia, per la nostra terra, e intendendo dire appunto una sua collaborazione per cercare di svelare quelli che erano i misteri che ancora avvolgevano le azioni di Cosa Nostra e i suoi rapporti esterni.